Do sarà Nicanor, coltivavi i suoi amori con mani di giardiniere. Quante ragazze in attesa son fiori di primavera che nessun altro può avere. Dove sarà Nicanor? Dava amore al porto intero, un cuore da rematore. Vorrei per me quelle donne, conforterei tante pene, consolerei tanto ardor. Guarda un po' come son tristi con il vento e con la pioggia, ed ognuno è ancor più bella quando è sola. Tutte quante fanno il nido nella propria nostalgia, ma una carezza non sa più che cosa sia. Dove sarà Nicanor? Ha legato mille amori con nodi da marinaio. Ma ci sono luoghi nascosti nei sette mari in tempesta, sette peccati d'amore. Dove amerà Nicanor?